21 e 56 minuti, lo abbiamo detto continuamente per tutto il pomeriggio, quanta gente ha occupato pacificamente le piazze d'Italia. Silvia Giacomini. A Roma in 20.000, a Bologna in 20.000, a Trieste 7.000, a Genova 10.000, a La Spezia 5.000, a Napoli 15.000, a Palermo 5.000, a Firenze 7.000. Centinaia di persone però sono scese in piazza, lo avete sentito durante la lunga diretta di Popolare Network, anche nelle città più piccole. Qualcuno diceva erano anni e anni che non si vedevano manifestazioni così. E decine di migliaia sono ancora in piazza a Milano, a Torino, a Treviso e a Pescara contro le violenze di polizia e carabinieri e per riaffermare il diritto a manifestare. Quindi buona manifestazione a tutti quelli che ancora sono in piazza. È più di un sussulto democratico, è quasi una scossa profonda, indignata, spontanea, di una civiltà impressionante. Al presidio Piazza Duomo è già piena, 60.000 persone, aumentano, 100.000 dicono alla fine gli organizzatori, soprattutto le facce, moltissime arrivano da soli o con amici, quasi inaspettati, non solo giovani, chi è stato a Genova, chi no, molti con la fascia a lutto fatta in casa, alcuni col segno del bersaglio al petto, qualcuno con una bandiera di partito, striscioni, si decide sul momento per il corteo. Milano è surreale, non un poliziotto in giro, quasi nemmeno i vigili. Il traffico lo ferma la gente che passa, chissà sfila, gli altri guardano. Anche davanti alla prefettura, non un agente. Solo 10 ragazzi auto-organizzati, giovanissimi, a deviare il corteo, poco prima sulla destra. Nella via stretta, mani alzate, lo slogan rimbomba, vergogna, vergogna, assassini. Altrove battimani, ritmati, spettrali, oppure silenzio. Una ragazza fa sfilare immobile tutto il corteo davanti a sé mostrando la foto di Carlo, morto a Genova. Cartelli autoprodotti, macellai, le 6 TV di Stato non dicono la verità. Quando la testa del corteo rientra in Piazza Duomo dopo più di 2 ore, la coda deve ancora uscirne. Per una sera il centro è circondato da vera democrazia. Questa sera, quando la manifestazione è finita in piazza Venezia, è rimasto uno striscione attaccato ad un portone. Il sangue non fermerà le nostre idee. Un corteo appeso ad un filo, anche alcune magliette dipinte di color rosso sangue. No alla repressione e allo stato di polizia, dicevano i manifestanti, quasi 40.000, tantissimi di ritorno da Genova. Testimoni oculari hanno scritto su uno striscione, oppure superstiti, tanti altri con il segno di un mirino sul petto. Una manifestazione...